no, fischi. Tu pensa che quel DAC, Claudio, me lo voleva dare Walter, non l'ho preso perché aveva la manopola che andava storta, non l'ho voluto per quello, se no me lo dava, io volevo l'altro nuovo che c'aveva, non me l'ha voluto dare. Ma quello che c'ha Cosio, come si chiama, Daniele, c'ha le lampadine bruciate, ho già visto, l'ho visto a casa sua, c'ha un paio di lampadine bruciate, e poi non so se non mi ricordo, ma delle cazzate, capito? Ma non va a tenere proprio uno demolito a questi ricambi. E già l'ho detto l'altra volta, e metto quando se ti servono pezzi, vieni e te lo... Se c'è la manopola storta gliela drizziamo, capito? È un pericolo che non si addrizza molto, comunque a drizzare una manopola già ci riesco ancora, avanti a tu. Portátil, ¿verdad? Acá no tenemos. se funziona bene. Siamo un più giuro che funziona bene, ho controllato certi errori sul regolatore di segnale. Addirittura se il canale RAI mi dà 100%. Ottimo per la truppa. No, io ho dovuto rimodellare tutto perché non prendevo i canali RAI. E allora ho dovuto resettare, perché il mio con l'ecore incorporato, il televisore, ho dovuto resettare tutto e farglielo riprendere nuovamente dal capo. Cioè, ho dovuto agire, rimetterlo a posto di canali, facendo piazza, poi sì, qui vanno a chiedere il canale, questi miserabili, ma loro vanno avanti. Va bene, non me ne affronti un nome, guardo io, dai, però ho detto, ma la colpa è loro, e non si degna neanche di mandare un messaggio a dire guardate che c'è un problema, stiamo sostituendo delle parabole a cosa, come si chiama? Non a Badi Urba, adesso mi ricordo perché hanno letto che ho telefonato a Sassari, stavamo facendo dei raduni, ecco erano i video, non gli hanno avvisato, no. Mi sono invece tutti disimpirati, ma come vi ho detto io i girendi, ecco che hanno i televisori. Monte Oro. No, questo si tratta a cosa di mia mente. Ah, quello mensile. Sacra. Ecco se è mensile, perché tu mensile lo paghi, quello lì. No, ho detto una mesi, questi aggiornamenti del televisore. Sì, io manco ne sapevo, io ho girato un giorno, ho visto che non c'era la RAI, vabbè, 1, 2, 3, di altri RAI già si vedono, Premium, Sturia, RAI Sat, tutto si vede, non si vedeva l'1, 2, 3, e allora ho presentato tutto, ho rifatto tutto dal capo, ma una rottura di palle, per carità. Vabbè, ma Sandro Tile non c'è più Gianni. Ma Sandro aveva fatto un attimino di quell'X, ha detto che riprendeva dopo, doveva fare cosa, così ha detto, poi non so se voglia rientrare, Sandro? Via, già sono qua. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo, sa. Hai finito di fare trabacco? No, sono qua che sto ultimando, ma vi sto seguendo. Claudio, a proposito della Rai 1 Rai 2, che io non lo vedo ancora. Attenzione, Sandro. Devi farti, sai che cosa, devi andare sulla lingua tedesca e farlo con quello, perché io l'ho fatto così, in italiano me lo prendevo. Io l'ho dovuto resettare tutto quanto e poi rifare memorizzare nuovamente, capito? Però l'ho fatto in tedesco e poi una volta che ho preso che sono entrati tutti i canali in tedesco, praticamente ho fatto la voltura in italiano, sono andato sulla lingua lì e l'ho cambiato, ho messo in italiano e me li ho memorizzati tutti in italiano, capito? Però dico un controsenso perché loro non hanno avvisato nessuno, se invece avvisavano mandavano qualche messaggio, qualcosa, capito? Un email, insomma si sarebbe fatto già da prima. Io l'ho fatto quando era l'altro giorno, perché non mi guardo mai, guardo solo le TG regionale e basta, tanto la RAI non va mai nuda. E quindi non me ne ho manco accorto sinceramente, capito? Ma perché tu non li vedi a Polottolese? No, negativo, ho provato a resettare i canali, però negativo, mi dice assenza di segnale. Non riesco a capire il motivo perché. Comunque ascolta, dimmi un attimino questa modulazione. Com'è? Ma buona sa, sono andato a vedere a usare io, ti seguo molto con le modulazioni. È buona, 5 perfetta, amplificata, c'hai un leggero eco sotto, va bene. quanto c'è il radio questo attaccato all'unione a questo apparecchio? Va, io non so se sei sotto casa tua, se è un pochino, come si dice, un pochino compresso, un po', però la radio è abbastanza chiara, prova a chiedere a Gianni a vedere come ti ascolta. No, io lo sento male, ecco, dico la verità, è esatto. Ma te? Sì, sì, esatto. Esatto, la radio è mangiata, cioè. È mangiata, no? Perché mi sento bene, quindi sono vicino, tutte casa mia sono qua. Sono attaccato, tu, siamo vicini. Vedi, mi hai attaccato, prova a attaccarlo. Io ti sento stato, ma sto dicendo, può darsi che sia la vicinanza, capito? Se ti sente stato anche Gianni, prova a abbassare qualcosa, non lo so. Se stai usando lineare, no, non lo so cosa stai usando, non ho neanche capito sinceramente, però ti ascolto sotto, ma già è chiara la modulazione, ma è comprensibile qua perlomeno, eh? Qua la parola si è staccata, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caro mio, vedi bene, adesso è bella, pulita, forte, e allora c'è troppo ingresso, altro fai qualcosa, perché con l'attacco lineare esci saturo, c'è troppo ingresso sull'amplificatore, abbassalo un pelino, fai qualche cosa, adesso è bella la modulazione, no già? Gianni? Fuggito. Antonio Bombolo, lo senti Antonio Risci? No, io lo sento. Lo senti bene adesso? Già lo sento, già. È così, non è molto saturazione, così, perlomeno a me mi arriva così, E vabbè, io ce l'ho vicino. No, così Antonio va bene la radio, mentre invece si attacchi e satura, capito? Quindi sicuramente è perché c'è troppo ingresso, non lo so. Oh, Sandro, lo senti Antonio? Aspetta, devo dire che l'ingresso, allora fa guardate quella strada, fa guardare se mi è passato il batte. E con, se lo usa con lineare non le dare più di 5 watt, se vuoi che esca bene, capito? Non le dare più di 5 watt, se lo usa senza lineare allora mettilo come vuoi, ma per il lineare non più di 4 watt, 4 watt e mezzo sono sufficienti, se no poi satura, capito? Avanti Sandro. Ok, dai. Sto guardando qua che c'ho tutto sopra. Va bene. E cosa ti volevo dire? Vabbè che adesso sono liscio, Aspetta un po'. Ok. Non ti qualcosa in sottofondo? Bella, 5 perfetta. E cosa hai messo? Connettore a 4 allora. Eia. Connettore a 4. L'ha fatto ieri un po' quello zaibeto che è pieno, tu lo sai che il cavetto del lavoro è benissimo di Emilia. Quindi fischiava, quando fischiava, innescava, è stato un casino, allora ho dovuto fare ponticelli contro ponticelli. E adesso ho visto che non innesca, che non fischia. Oh no, ma più che bene, anche benissimo, ottimo per la truppa. Il segnale è quasi 9, cioè 9, con la potenza solo della radio. E la radio 5 è perfetta. Guarda se ti ascolta Antonio, bene, io ti ascolto benissimo. Io ascolto benissimo adesso, senza problemi, qua c'è Santiago e Radio 5. Sentito, Isa? No, negativo già. Negativo in quanto c'ho problemi a Santiago 9. Capito. Va bene. No, già stai andando bene comunque, non c'è problema. Gianni, avanti. Mi ha sentito un secondo che voglio fare una provativa, voglio attaccare un microfono a questo apparato, vediamo un po' come va. K positivo, va bene. Alessio, riprendi. Guarda che Alessio è sperimentando. Sperimentando sta. Io. E tu non c'è uscito tutto stamattina. Io stavo trabattiando. Sono arrivato a casa in Romocchio. Una rottura di balle, per carità. Allora per domani, dove? Domani. E tra settimana c'è. Andò a Nadari. Lavoro anche il 25, no? 25 sono libero, lavoro il 26. Ma per me sono uscito stamattina a casa, no? Molto vicino. Io sono sempre qua a casa, sono. Adesso, ragazzi, verso le 7 figlio, appena appena esco. Perché stare troppo a casa, ma è una disperazione. Beh, lo so. Ma vedo qui va. No, io non arrivo a casa, proprio in pigiama, pigiamone. Ma entro qua sarà radio, ma se ho accesso al computer da poco controllo se ci sono messaggi, se c'è qualcosa e niente. Signore mio, come ti dà tempo? Buono, lo stesso di sempre. Qua sei oltre 9:20 a Radio 5 nella mia postazione. Capo di positivo, media per questo anche ci abbiamo un terratte, c'è a me pare 10 watt, in picco 15. Va bene così, no tu ce l'avrai bene, io la grande 9:10 abbondante. Ottimo per la truppa, ma vabbè io sono un bel istante da te adesso. Sono un bel istante, ma hai tenuto un buon segnale, non ci stanno problemi. E Giampaolo, sei lì, l'ho sentito oggi, com'è? Sentito è tutto a posto? No, non ho sentito per niente oggi. Starà combinando qualcosa. Sull'altro. parlando? Sto parlando al microfono, non lo stavo uscendo, ho fatto gli attacchi qua. Allora. Gianni, va la palestra? Prova. 1, 2, 3, 4, 5, prova. Ha migliorato, ma ancora un pochettino, eh. Aspetta. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va lontanamente, il microfono alla bocca, a vedere, se non è quello, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Appena, appena, appena, ancora ce n'è, ancora ce n'è. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai da palestra. Ancora non ci sono. Non ci sono ancora. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Può andare, però c'è un rumore di fondo, fa Sta passata, non ce la fa pilotarlo, sono batte in mezzo, non so io. Hai capito? Allora devo salire così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Ora, 1, 2, 3. Ok, si sente la compressione, ma va bene. Adesso dimmi tu come mi senti di radio che ho provato a mettere questo microfono nel magno. Ascolta, allora, guarda adesso appena appena, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devi affondare così, vai. Guarda questo microfono, adesso come va, che non mi ha dato ancora la risposta, che ho provato questo microfono sul magno. Va bene, è perfetto. Forte. Tu non è che sia fatto forte, l'avevo detto a te, va bene. Va bene. Vabbè, vai, lasciamo qua, va. Adesso lo lascio così per la vesce, oppure domani mattina me lo piatto meglio, dai. Va bene adesso, adesso si sente bene. Si sente un po' la compressione, ma è normale, se c'è il lineare potete si risentire. Ma per il resto va meglio, la radio è bella chiara. Ehi capa, guarda però un attimo, ci abbasso un attimo, metti il microfono, come si sente. Guarda com'è, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sto facendo un rumore strano. Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sente bene. Ok, dai, tra 5 minuti sono qua. Sono, vabbè là, ci vediamo là già. Vabbè. Se vuoi salire, pigliate il caffè e vieni, non c'è problema. Vabbè, vado andare un attimo da Nico perché devo portare una cosa, dai. Al limite ci sentiamo più tardi, dai. Cara, qua sono. Audio, riprendi. Allora, 1, 2, 3. Claudio, ma mi sta fischiando? Non è perché sono in cuffia oppure perché sta fischiando veramente? Ciao ragazzi. Hola. Anzi. Guarda già, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, adesso va bene, dai. Va bene, non fa più, prima era incomprensibile quasi la radio, ma adesso va bene, tu va bene. Tu non vedi il segnale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu mi sta arrivando 9, 10 e radio 5 qua. E dove sei? A Via Milano. Va bene, se no tranquillo, c'è la macchina, bisogna contare anche questo. Beh, va, 5 minuti di bianco, come me, scendo giù, gli do quella pressione e me ne vado a casa, ok? Cambio. Ciao ragazzi. Gianni. Avanti, sa, ho fatto un esperimento, vai. Ho attaccato lo shooter al manno, visto che tu mi hai dato la dritta, nel senso che se la sei attaccata di questo potrebbe andare bene anche per me. Come va lo shooter? Ah, io ti ascolto bene, ti ascolto bene, ti fa la modulazione più fine, capito? Va bene. Sandro? Chi è che chiama? Ehi, nel cino sono. Buonasera, comunque. Hola. Sandro? Attenzione, chi sta chiamando? Ascolto sotto fuoco, vedo il QRM. Perché c'ho un casino di QRM. Tu lo senti già? Chi è un cino, purtroppo io ho un momento riesco a sentirlo appena, ma però un momento è negativo. C'ho QRM 7979. Sandro, mi ascolti? Cambio. Ehi, adesso sì. Ehi, come ti fa arrivare a parottore, Sandro? Beh, negativo, non ci dai. Non ti sente, dai, non ti sente perché c'è QRM a 9. Cappa, io sono qua in viaduco degli Abruzzi, hai capito già? In viaduco degli Abruzzi, cambio. Ehi, dammi un controllo radio, guarda come sto uscendo, cambio. 9, 10, radio 5. Questo è lo shooter. Ehi, cappa, stai uscendo bene già. 9, 10, radio 5. Strano, Alessandro, non mi riesco a copiare qua, cambio. Cosa, Alessandro? Oh, cazzo, era meglio, cosa hai fatto? Era meglio? È uguale a prima, non toccato niente, guarda. 1, 2, 3, prova. Ma si faceva una modulazione leggermente più fine, più cosa. Adesso non so se sta lavorando sul mic gain. Non l'ho toccato, ma lo rilascio a posto come era prima. No, sto provando qua, guarda, aumentare e alzare, guarda. Così comunque l'unico modo che posso uscire così, perché sennò poi fischia. Dopo di questa regolazione si fischia. Ok? Guarda, così dovrebbe andare bene. Ok. Sì, no, inizialmente lo facevo anche a me qua, capito? Che mi fischiava e era un casino, ho dovuto fare un po' di cielo. Guarda, ma comunque questo qui va meglio dello scivolo, del carro più 3, perché io se tutti e due, uno dopo l'altro, riusciva più forte questo. Adesso che non mi si addegui la voce è un conto, però il microfono andò buono. No, lì che aspetta, lo Shure l'ho avuto io già, è buono come microfono, è tutto questione diciamo di abbinamento, capito, questione di abbinamento e magari anche questione di tonalità di voce, tutto lì. Però questa me la fa abbastanza grossa, poi questo qui è stato tutto ristrutturato da me, quindi ha un valore inestimabile. Questo era un microfono, diciamo, che aveva i suoi anni, io l'ho riportato tutto alla normalità, proprio come se fosse nuovo, l'ho lasciato tutto originale, e l'ho smontato, l'ho riverniciato, tutto lì. Compressore là. fischiava lo stesso, ma è così, fischia lo stesso. Sì, ma ho già, devi togliere completamente dal connettore del microfono suo originale, devi togliere completamente il microfono, Così è. Sì, toglielo, perché ti influisce, Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Guarda, adesso ha migliorato la radio. No. È sempre uguale. È sempre rimasto uguale. Ma dimmi una cosa, dalla parte sinistra del mic suo originale gli hai tolto? Gli ho tolto adesso. Ho capito, ma ti innesca. Allora, come inizialmente, come facevano qui da me, che mi stava innescando di brutto, allora gira, ci devi fare un ponticello. No, non c'è bisogno, guarda, basta che regoli da qua, guarda, adesso non fischia più, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, guarda, mi sto avvicinando, ora, non fischia più. Ehi, capo, allora devi lavorare, adesso non è che gli dai. Sono mai che va bene. Un attimo di così. Guarda, io posso fare le distanze da qua che è normale. O da qua. O da via. Vabbè, sa. Sì. 1, 2, 3, prova. Dito, dottor Gianni. Avanti, bar agricola. Ci sei a casa? Sì, già ci sono, sì. Ma è che venivi a prendere l'apparato e sei venuto. Adesso perché a Babbo si è fermata la macchina l'altro giorno, non so portare la quello che c'è vicino sotto i campi torni si è rotta la pompa del scaldamento e volevo venire soltanto dopo che era tardi verso le 10 volevo venire, ma non sapevo se con il cazzo passa adesso, se vuoi passare non c'è problema, vuoi passare anche in vicino. Prima lunedì sera e te lo dico per martedì mattina, non c'è problema per quello. Va bro. Posso dire cosa? Ui. Ripiglia canzone. Si rialza le chissu, si cocca il chissu. E lui ha tutto che mi ha dato alle 10 io mi ero alzato alle 7 e mezzo la mattina. Anzi, a volte mi manda a letto perché a verità alle 7 e mezzo non ci faccio niente in piedi. Cosa mi guardo? La palazzina non è a cliente, però non mi guardo niente. Mi guardo il televisore, al calduccio e basta. Perché non c'è niente da fare fino alle 10. Ma la storia, che non deve andare a lavorare, è normale. male di cassa presso a Toledo, per forza di nata a distanza, che non fa niente che fai, vai travagliente, e allora di nata a distanza, e fa bene. Devo travagliare un corretto brutto, al ghiaccio, mi passo tutte le mani ogni anno, ogni anno ho sempre tutte le mani spaccate. I guanti bisogna usare. Si può trattare i guanti li puoi trattare per carregare, lucare, ma da voi mica puoi lavorare con i guanti. È perché non sei abituato, ma se tu sei abituato a lavorare con i guanti, le mani non rimangono più riparate. Certo che certe cose non si possono fare, non si può fare con i guanti, però se uno si abitua ai guanti vedrà che riesce. Sto provando, mamma mia, sto diventando nervoso, stavo presentando. Magari facendo un altro lavoro, sì, ma per vedere che ci vuole molta manualità. I guanti anche lungo mettiti, quelli fini fini che sono sensibili a tutto. Fatti subito. Sono migliori quelli, sono migliori. Yeah, ma tu li spacchi subito, ti si aggancia sotto. Ti si aggancia sotto quel coso. Come si chiama? Mi ha visto la bomba, ti si aggancia sotto dove ci sono quelle piccoli a punta. Allora come te lo fai? Già lo so, purtroppo è così. Cosa usavo di riccaio? Usavo i guanti e fallo a mano, anch'io. Quando usavo i blocchetti, usavo blocchetti. Con i guanti non ci riesco per niente, perché mi scivolano la mano, ma con la mano mi facevo la mano a pezzi. Forse è fatichissimo di avere riuscito, va? Invece purtroppo non è roba così, sono un particolare, insomma. Mi stavo molto attento facendo quel lavoro lì. E ritroviamo la mano di un gordo insieme, io non me la confondiamo. So, tipo, poi quando vedi i ragazzi nudi ti aprono la porta, che li cade la bomba ai piedi e vai anche in malattia, non so l'altra. Io già non mi cado. Che parlato. Anzi, oh, c'è Maria, c'è anche Sandro, mi sembra. E poi un po' avanti, Sandro. Buonasera, signori. Ciao, ciao, buonasera, ben ritratto. Perché ti sta chiamando la signorina? Ciao, non fa a mettere il microfono per i gatti, Se mi scappa qualche giorno, mi sorprendete che mi è scappata, cara. Se si sta chiara chiara come ti ha chiamato. Vabbè. Non è niente di grave, per cui... Va bene, a te. Va bene, sì. C'è lo crepo giallo. Ok. Ciao, Popo. Ho cercato di fare un piccolo abbinamento, là. Popo, come modulazione com'è? Collabora, perfetta, chiara 5, amplificata. Ok, là. Comunque, per notizia, produttore ha fatto una bella passata di grande, eh? Se no qua, potete vedere con lui, anche i fulmini c'era. E ci sono tuttora. Ma ho sentito che c'è Giuseppe sottofondo. Non lo so, boh, chiamalo. Giuseppe? Ehi, vabbè, va. E allora, Giomari. Si tira. Ecco cosa vuoi fare. Guarda, la tua attenzione, ogni tanto la chiacchieratina, ammazzando il tempo. Tutto bene, grazie a Dio. Spero anche di voi. Arrivi a Porto Torres, Gio Mari. Arrivo. Idevo anche, non arrivi? Ho detto, quando arrivi a Porto Torres, a chiederle a Sandro, per capire un po' come si arriva da questa zona. Io sono piccolino, tre vatti so io, tre vatti, avrà arrivare 35 o 7, così è sta. mi arrivi qualcosa di più, dai. Santiago 9, mi stai venendo? Ehi, allora va bene, vedi, io sono libero per Porta Torre, per cui per forza arrivo così. Tanto se tu metti l'antenna come ce l'ho io, arrivi anche tu più forte pure. Scappa. Ah, io non basta quella che ho, non basta. Se la potessi montare qua, vedi che arrivo. Arrivo forse anche più forte di te. Eh beh. Ecco, questo dipende anche dall'apparecchio pure, capito? Per cui, Antone! Dimmi. E tu quanto arriva Sandro? Non lo so, boh, sono annullato apparecchio del mio, quindi non si può dire. Avanti sa come arriva a te. Sì, ok. Da parte tua, Antone? 9-5 quasi. Capito, 9-5 quasi. Prova a cambiarmi il rapporto. È quasi 9 qua, questa palicchia qua, questo è molto ristretto, è come di Smizzer, quindi c'ha tutta la trattura per i fatti suoi. Ecco, non mi dire che l'hai preso dai marocchini, no? Quelli in offerta, no? Cosa vuoi dire, Caio? Questo è sotto, come paracchia, come Smizzer. Addirittura Claudia posso arrivare 9.30, mi arriva 9.10, 9.20, figurati tu. Sì, cazzo, all'anima. Oggi marito, ma non so se la portarlo da coso, da primo, quella di Pomponio. Non è il suo quello lì, no. Il suo già arriva, ma non è che dipende dall'apparecchio suo, è l'apparecchio di un altro, per cui è per quello, capito? Poi, quell'antenna del Santorello, se dovesse mettere una manto fa lì, penso più bene lui, chi è che arriva? E non ci penso nemmeno a pensare una manto, va qua, ma neanche il cercato che piace più manto, ma devo stare spaventato io. Ogni mese a trovarmi il palo in terra, no, non mi piace più, basta quella che c'ha, esce bene, mi accontento di poco e basta. Ogni volta che c'è la mantova si spacca le radiali, già lo sai, lo scrivo in valentino ma si spacca le radiali, pure io non è che uso un vanto, non è che ho niente, basta e avanza questa, è come la penso io, no? C'è una mantova qua a me. Me l'ha regalata a Torino Latina di Usini, ma no, è smontata, non me ne faccio proprio niente. La portata stanno mettendo, dai, io da bravo, grazie. Devo entrare avanti e ti lascio un attimo libero, là. Sì, sono contento di mettere la portata. Sì, ok, va. Poi passiamo con me. Beh, certo che lì tira, dove sei tu, tira, Se non c'è un punto d'appoggio buono e non conviene no a me. Io già l'ho già individuato come lo piazzate, per cui non me la butta tanto facilmente. E quanti anni ci sono queste antenne? Ancora sono nuove. Oh. Ma lo sai cosa vi dico, la mantova sarà quello che sarà, però l'inverno col vento prende tanti di quei colpi che la metà basta. Io lo stesso sono sempre lì in casa spaventato, anzi sembra una frusta sembra. Grossa, è pericolosa, è anche pesante per il palo addirittura, no, ma per come la penso io, a me basta una morbida, sicura, si pigia ma non si spacca, come il pisello, quando va liscia al vento si solleva, invece quando il vento non ce l'è è a posto. Adesso non so, dov'è l'antenna di Sandro, se Sandro anche lui non è che c'è un punto tanto buono, così è stato. Per avvantaggiare l'appoggio delle cornacchie e delle uccelli. A tu. Oh, dimmi, domani. Appella, la... No, vabbè, dai. Io chiudo. Dai, risentiamo alle prossime, domani, dai. A me già non me la metto la portata. Ma cosa c'è portata, Sciò? Ciò viene, c'è qualcuno che ti vuole ritoccare. Ecco, se ti vuole. Non si è passato, sa. Carità, dopo. Io, ti piace a Conti. Ciao. Qua sono, dimmi, sono qua. Ciao. Adesso meglio va, come arrivo adesso, sono con chi vuoi, vabbè. Ehi, la passi adesso, Antonè. Meglio così, sono contento, vedi? E a te? Con la B27, con la N15 Tavi, ci ho pagato a scantare un velivo, va bene va? Eia, già va bene, va bene. E magari Sandro l'ho fatta, Antonio ha chiuso, non so perché, non so perché lo faccia, ma... Boh, bro, chi li voglia? Ok, Sandro! Sì, ok, dai. Tanto se va bene, io un po'. Hai cambiato, non giorno, non notte. Troppo bene. Ma non vedi una 50V, cosa vuol dire? Piccola ma sincera. Pesa mezzo chilo, la puoi sollevare quanto ti pare che piace, non parlo te lo scopri come ti succede nulla. Così va bene. A Toledo, come lì ti la morto, per cui. No, ma io ti sento bene. Sei 9.30 qua, ti puoi immaginare, per cui va benissimo. Non ci sono problemi, capito? Va benissimo. Ottimo segnale, ottima radio, vabbè che adesso con quella pericola va bene più bene ancora, capito? Già vende la 58 questa qui che ho io, non è come la mano, ma la mano è troppo grande, ogni volta che ce l'avevo sopra o fischiava, oppure mi scendevo le radiali, mamma mia, uff. Allora ho chiesto questa qui, come c'avevo una volta, un genizzetto, e questa tagliare della Mantova, un bijou e pompa quanto una Mantova uno. C'ha tre radiali in petrolesina, ed è perfetta. Mai fatto. Allora va benissimo, io mi sento perfetto, certo. 9.30, a Sandro, l'altro non passa adesso, Purtroppo sa, non passi, Tu non passi, Antonello sì, ma tu non passi, sa. Eia, ok, dai, pazienza, lasciamo divertire il bambino, evidentemente è l'unico suo divertimento. Infatti, Oddio. Beh, di gusti. Pitto bene, Antonè, va benissimo quell'antenna, per cui sei tranquillo almeno, pure che faccia vento se la butta. L'importante è che la staffa sia solida. Ma aspetta, un pugno. Dimmi. Ma quella è quella già accordata? No, non è quella accordata, è da accordare, diciamo, perché devi... c'è lo stiletto da sollevare all'ultimo e basta. Ah, ok, capito, tipo la Sirio, dai, tipo la Sirio 8002. Esatto. Esatto, sì. Ho capito, però c'è il radiale. Quanti radiali c'ha? Tre radiali c'ha. Ok, dammi un rapporto lì da te adesso, com'è? A Torè, come la 27L a Torè? Uguale, è precisa, eh. Ah, precisa. E allora? E allora per il radiale vado bene, capita. Ok. Boh. Adesso devo smontare quell'altra che avevo dato alla buon'anima. Quando la scendo c'è anche quella piazzata che avevo piazzata per il ricevitore, capito? Eventualmente se ti serve te la regalo quella lì. A me? Se ti serve. Se dimmi che mi serve, cosa vuoi ti dica? Che non abbia 27 anni allora, ti metti quella. Cosa vuoi ti dica io? E se sta cura ti porto l'altra, tanto c'ha. Questa c'ha pochi mesi di vita, già lo sai. Il problema è sempre se all'avanto mi attacca come nuova. Il problema è quello, lo sai, nulla di qui di Mantova. E supposa solamente per pezzi, boh. Oh, ma te quando la scendo, altro, quella 27 che ho piazzato per il servitore non mi serve, a me non le piace di quella io, capito? Perché ce l'ho già io, non ce l'ho l'antenna. L'altra me la lascio eventualmente, la macchina me la lascio eventualmente per campagna, quando si fa chissà in campagna li piatto vista, capito? Capito? La pulisco bene, è nuovo amico da lì, perché abbiamo passato almeno 3 anni, per cui è ancora nuova, ma quando la butto giù la ripulisco e la metto da parte, eventualmente oggi o domani la piazzo in campagna, capito? Perché qua io ce l'ho un'altra nuova, capito? Ce l'ho già impacchettata e l'ho fatta arrivare l'altro giorno, per cui per campagna metto quella che c'è che devo smontare, capito? Vabbè, non c'è problema per quella. Va bene, va bene. Allora, chi sa? Via. Ok. Va bene, va benissimo. Ai lavorai. E la... Oh, Pupu. Il mio rapporto, ridate adesso che c'hai uno come si deve, com'è? E 9 più 10. 9 più 20 si va a me, Sandra. Ehi, già va bene, dai. Già va benissimo. No. Ci vuole un'antenna che fletta bene, che non sia pesante. Ma la calcio di quella com'è? Come la mato? No, si aggancia direttamente al palo. Te la ricordi tu la Firenze 2? C'erano due graffette nella base e così si aggancia questa qua. Ah, ho capito, sì. Ho capito, ci aveva quelle due staffe lì a uno. Ho capito, non è da infilare, diciamo, come la mantova. Ho capito. Va bene. Sto dicendo, un buon bombo antenna, è veramente un bombo. E quando te quello che l'ho pagata, guarda, ti giuro che ne vale anche la pena. E c'ho 2 metri e mezzo di palo, non di più, la verità. Se tu vieni qua sotto te la faccio vedere. C'è uno stazionario, appunto io non ho pigliato i parametri che avevo scritto nel foglio, invece erano sbagliati. Allora preso, sono levata quasi tutto e c'ho 1 e 1 da 26 a 30. Figurati, ho capito, dai. Delle volte caso ti fanno pagare queste antenne adesso con la mano, ma si arrivo. Hai capito? Sono le 7. Capito? Ok. Capito, buon po'. E in proporzione alla mantova, che te la vanno a far costare una parte di soldi e poi anche pesante. Te lo non so, io ho fatto quella scelta, ho detto di cambiare l'antenna, l'ho cambiata, ho detto un altro vanno che voglio, qua appena abitavo prima, e cominciavo a fischiare, era pesante, diciamo le radiali come le mele. Guarda, la manto con la buona antenna, la verità, perché non posso dire niente, perché l'ho usata, ma ho usato la 5, la, cioè ho usato la 4, la 5 e la turbo. E l'unico problema che mi dava è solamente il problema dei tralicci. Da quando sto usando questa qui, io il problema dei tralicci non l'ho più avuto. Non sento più scariche elettriche, la verità è che sento quasi tutti. Vabbè, l'antenna è bassa, la verità, perché sta bassa, però sento quasi tutti. E rende, ho visto che rende bene, quindi è un'antenna molto leggera, fretta, non c'è bisogno di mettere di tirate allo stilo, nulla, non bisogna mettere niente, l'antenna tutta la torre che si piega un bel, nella mattina la torre è come un pisello, come le antenne delle mature, tu vedi le antenne delle mature quelle fine che sono lunghe 9 metri, cose del genere, si brilla, sembra che stanno scendendo l'aspetto, invece non è tanto più bella aspettare. Sì, io lo so. E in effetti è così, dai. Vabbè, dai, vi devo lasciare che devo uscire un attimino. Ciao, buon po', ci sentiamo alle prossime. Ciao Giomari. Che causa. Alle prossime. Ci sentiamo, Walter. Ciao, ci sentiamo, buon credito, buon tutto, a dopo al limite. Avanti Giomari. Ok, infatti flette molto, come quella che ho dato a pacchetto, si piega perché flette molto, però non si rompono ma la sorte, sono fatte apposta, capita? Io non quella me l'avevo ripresa tua, ti ricordi, però l'avevo preso un'altra io pure. E quella di Mario è una, e dopo l'altra l'avevo data a Falchetto, per cui l'hai visto come esce Falchetto. Da quella posizione, con quell'antenna arriva dappertutto. Per cui no, è buonissima come antenna, I radiali sono piccoli, per cui sono orizzontalmente, e va bene, va benissimo Antonello. Da te va benissimo. Sto dicendo, io ho sentito stasera il discorso, non sono neanche entrato, mi sembra che era dopo pranzo, quando era, e qualcuno stava chiedendo nella di cantina, con che stava facendo Falchetto, perché ti è stato a comprarsela, l'ha capito, perché dice che la terra è buona, rende bene e non ha nessun problema. E quindi mi sembra che è il secondo che la verità che la vuole pigliare, non lo so. Dunque la verità per quello che l'ho pagata a me mi sta benissimo, non posso spendere 110 euro per avere 4 tiri e mezzo di antenna quando la sono lì, è un casino. Io la Mantova, la mia, ti giuro, la Mantova Turbo non l'ho venduta, perché non ho regalato la mia, perché proprio non potevo pensare nessun posto, a parte viene un bel male, quando metti un palo sopra, un palo d'acqua, per dire di 2-3 metri non ce la fai, ma la cosa da sola. E invece questa qui, prendo quel palo da 3 metri, piatti l'antenna, quindi la solo da solo, come niente, poi ce la metti nelle gaffe, quindi ti fai il lavoro che devi fare. Quando la vuoi scendere, la scendi in terra, non ti crea nessun problema, basta che ti torni nei fritti, la ritiro indietro e sei a posto. Vabbè, tu perché c'hai tutto buono, insomma, io appoggio non avevo, io sa che c'è, lui già l'hai visto che c'è la fumaiola solo, e c'è la gravata nella fumaiola, è sopra la gravata, a metà della fumaiola, quindi che sembra così, ma pesa sì, perché io ho, allora sono 7 metri più di tubo inocente. Sì, un'antenna, fatti conto quanto è pesante questa antenna. Poi da sopra il tetto a sopra la gravatta ci sono 40 centimetri e per portarla proprio sopra la gravatta dove c'è il bicchiere che appoggia in fondo, appoggia sul bicchiere della gravatta. Ecco, appoggia sopra e ci sono tre tiranti, anzi sì, tiranti ci sono. Tra l'acciaio e con la corda grossa. per cui non, poi non me l'ha mai buttato in terra né la mazza, né a me né a Mario. Per cui quando ho piantato ha fatto un lavoro ben fatto, e perché quando si piazza si piazza bene. Tu invece c'è l'appoggio, sei in alto, per cui col tubo che ci hai messo 3 metri o 2 metri va benissimo, a piena antenna e a voglia. È chiaro, puoi fare anche da solo quel lavoro. Io invece mio ci deve essere in 3 o 4 per portarla giù o per sollevarla, capito? Da te direi bene perché c'è meno tubo. Ma io lo sentivo solo, c'è Giuseppe, e gli altri Giuseppe a casa mi parlo una penna, ho messo due gaffe della gaffa pizzetta della parabola, penso che ho peccato da solo. Ho tenuto anche in mano, si pigliava il palo in mano, si ingeva con la gaffa, la prima. E non si mossa più, la verità. Allora, così l'ho lasciata fino adesso, adesso quando cambierò le gaffe farò la stessa cosa. Va bene, adesso va benissimo. Segnale buono, allora è buona, per cui adesso dice va benissimo. Cosa vuoi di più adesso? Tranquillo e pacifico. Va bene, lasciatelo così che è un bombone. Ci ho messo tutti gli altri, la verità, perché sono si piega per il palo, perché è un po' tedesco piccolo di bebbe, ma capito. E quindi abbiamo messo tre tiranti nella base dell'antenna di Coligus e rimane ferma così, però per non avere problemi di tiranti al limite basta un paio di 3 metri d'acqua, li piazza anche da sopra, non c'è bisogno di nessun tirante per dire. Vabbè, sa, essendo magari quel po' dove sei tu, se li metti per tirarti non li fa male, per cui sei più tranquillo pure, per cui, perché magari buttandola in terra potrebbe anche scendere giù, invece quando ci risolve i tiranti lo blocca anche i tiranti, per cui sei anche più tranquillo, no? Qui non c'è bisogno, io quando ho tirato giù la manto da turbo c'erano i tiranti e attaccati i tirati ce lo scegliamo così com'era, non è che servo direttamente con la scala, perché ci arrivavo con la scala stessa, non con la scala d'alluminio che c'avevo io leggera, andavo alla base, prendevo la base, ci mettevo la mantova in terra e basta. Se mi è stato un palo da 6 metri, allora sì, si è passati i cazzi, è stato il minimo due persone a portarla a scendere laggiù, appoggiare al muro e cose del genere, togliere la base, è un casino solo per tanto. A parte le rosse ragazze che montano la mantova fanno schifo, è un casino perché girano a vuoto e non mollano così, guarda la mola, che difetto c'ha con le tavole di antenna? Vabbè, ma se tu avessi avuto un appoggio più alto, vabbè, da poterci lavorare, la mantova va una buona antenna, solo che la mantova magari lì piglia troppo vento, però non lo so, lì che quando prende il vento mi ha preso. Eppure i radiatori non sono mai scesi giù, mai, sicché, penso come tira qua, tira anche da te, anche se sei più in alto, però se sono piazzate bene non è impossibile i tirati a... capito? In campagna si posano le cornacchie, certo, anche quei uccelli più grandi, eppure non me le hanno mai fasciate il radiale. Sa quali mi hanno sfasciato? Quando avevo la stella, perché c'aveva il radiale in alluminio o vuoto, e allora lungo andare è chiaro che secondo me si mette te lo piega, però sulla mattova più di 20 anni quella di campagna, si può immaginare, è ancora intatta, ci manca solo la punta dove c'è attaccata la stella, quella che c'è in campagna. E in campagna tirami, perché quando c'è quel vento, quella roba di Plata Mona, sai il vento che c'è. Eppure no, anche se la vedi, già rimarrà domani. Allora, che bella come antenna, avanti break. Buonasera a tutti, ciao, non ho capito chi sei, che ti ascolto un bel basso. Gianni Zorro. Ah, ciao Gianni Zorro, saluto di Becantito. Sei basso di segnale, 7, radio 3. Chiamalo l'antenna paramobile, dai. Aspetta. Ebbè, che gorro. Certo che si sente. Bobo ha aspettato sempre. Ioia. Ciao Giovanni, buonasera, come va? Tutto bene? Tu non venire mai a casa mia invece? Guarda che intanto il cane è sempre legato, ti vieni, non ti fa niente. Ma se tu lo sai dove abito, io non lo so dove abito, magari, vedi, vedi un po' male, sapendo magari sarebbe stato più facile, perché infatti una volta abbiamo parlato con la signorina qua di Viatrovaccio, però non sappiamo dove, per cui dove vai, alla cieca vai, capito? Mentre invece tu lo sai dove abitiamo. Io sono invitato tante volte a tua moglie al mare, non ci siamo venuti, quindi a Giovaggio Maria, quindi amorosi diversi, la signora lo sta trattando forte. Quindi al mare, non mi ricordo quando sono senza al mare, ma quando mi hanno lasciato la gabbina, e chi c'è se giù più al mare, non ci vado mai al mare. Non vedo, ma vicino ci vado mai. Vabbè, ma ho chiesto anche a un amico, a cosa, come si chiama, a Rita, che insomma anche loro vanno con la roulotte in giro, e mi ha detto, c'è una volta l'ho visto, un paio di volte, anzi mi ha detto l'ho visto, te lo conosco già, salutamelo, non so se te l'ha detto. Ho capito che dice, no, non siamo più tutta una volta che non ci vediamo, io con camper vado in giro tre parti, no, non so qui, insomma, quando posso chiedere che gasolio disponibile, qui che faccio. Beh, anche quello è vero, vabbè. Comunque, io ripeto, già c'hai il numero di telefono, per cui dopo mi dai l'indirizzo, che io non mi ricordo cosa, ma con dov'è, e così che mi dice vabbè, vuol dire che verremo a trovarti buonasera. Telefoniamo prima di venire, se ci sei veniamo, non è che ci siamo problemi, capito? Grazie, è un piacere, per rimanere a cena, a pranzo, che sarà un piacere, Giovanni. Ascolta, abbiamo lasciato dietro qualcuno che non ho copiato, chi era, non lo so, faccia un po' di saluto, non lo so, non si sa più il suo nome. Antonello Pomponi, ole! Antonello, ciao Antonello, ben sentito, se ti senti, ciao Antonello, come va? Sto bene, spero sto bene, almeno a te, sono altro. Tu sta bene, sta forte, tu come stai? Io un po' così, già, diciamo così, va bene, spero che va male. E infatti che va lì bene, poi pazienza, ce l'ha quello. E la pazienza abbiamo persa, cioè, non vedo di disperazione, io la rotta di scatto che può. Quello ce l'ho tutti, lo sai. Ma guarda, quando si dà troppo, troppo non si vuole, non si può. Troppo gas, un secondo, non faccio niente. Ah, quello si deve fare. Bisogna affrontare, sono persone, tanto che andare, fare. Va bene, va bene, avanti Giovanni, pigliatela. Ehi, ok. Svegliato si è, cioè di nuovo al baracchino. Cazzo, era stato non ti sentivo, ormai stasera sei entrato. Ma guarda, stavo ascoltando da poco fa, non volevo non terminare, ma è qua avanti, sono usato, una volta non mi sento. Mi sono sempre attaccato tra chi, mi chiede di risolvere il conto, pagare la concessione, mi sono sempre attaccato. Io pure, io la sera è sempre acceso qua. Infatti io la sera è difficile che esca, capito? Che mi seguo qua, mi guardo il televisore e metto le cuffie e così che se c'è da chiacchierare, chiacchiera, solo ascolto da un quadrato all'altro e se c'è qualcuno mi fermo, se lo voglio entrare ascolto, capito? E tutte le sere. È meglio, sono da 1 a 40, dipende da 5 rimane. Oh, certe volte su 10, certe volte su 17, per cui secondo me se togliamo, capito? Certe volte andiamo più giù, più su, capito? Non c'è più nessuno, non c'è più nessuno, durante il giorno qualche cante, l'hai capito? Per cui sono tutti in letargo, ormai hanno più ore, per cui partire dopo spengono magari e così via, però non è più come prima, ecco, tutto deserto. Io non ne so, quando ho preso la macchina nuova non ho piazzato antenne, ma che non le metto, ecco, perché tanto la mia punti lontano, ma raramente, sempre ferma la macchina, mi sa. Che niente, allora cosa la metto per smontare, così se è possibile, quando se uno stesso la casa che lo accendo, se vuoi entrare faccio la chiacchieratina, 5 minuti su che si trova, ascolto da moto. La chiacchieratina me la faccio, non tutte le sere fisso fisso, però ogni tanto magari tu uscirai magari tardi, io prima delle 8 spengo tutto, non tocco più, non è più come prima, capito? Prima delle 8 spengo e se ne parla il domani, capito? Magari tu lavorando esci tardi, è chiaro che non mi senti adesso sei a casa, così è. Sì, 9:10, segnale buono, radio buona, perché secondo me sì, magari sento a cosa a Rita quando escono, oppure a altre magari nel campo, per cui li sento benissimo, capito? Magari se non parlo fra di loro non entro a parlare di sul bar, però li sento, capito? Vabbè, benissimo, per cui vedo un po', se sia stata bene, una buona base di massa, per cui sei tranquillo, capito? Ma vai benissimo, e che so, capito? Se sei tranquillo. Purtroppo, siamo di passaggio, per cui non è che possa guardare, per cui sappiamo benissimo com'è la pizza. E purtroppo ce la vai. È già 3 mesi. Purtroppo. Vicina di ti faccio ti devo dire cosa Giovanni. Una mezz'oretta ha fatto una scappata qua sta sopra, anche con sua moglie, capito? Per cui fa piacere, vuol dire che dopo magari scenderemo noi da te, così che ti fa piacere, capito? Io devo, guarda, sono qua perché sono molto buona forza, mi hanno preso un lavoro, mi hanno preso un lavoro, purtroppo, caro, le persone oggi più che mai, ci sono sempre fatti quelle persone e ci saranno sempre. Purtroppo ogni tanto si fanno sentire, per cui vediamo che tutto vada tutto bene e che riprendi tutto da capo, Giova. Fai da pro male, guarda la pianta non ha potuto essere dentro la città, vedete tutti il lavoro del genere, io ho mirato anni, ma non ho potuto essere dentro la città, non ho potuto essere dentro la città, non ho potuto essere dentro la città, troppo, ogni maniera si la ciappa, ragazzi. Dai, sei pochino che è venuta gente già qua, mi ha fatto piacere che ti ho risentito, salutami casa e già lo sai, quando vuoi ti fa piacere e per cui dopo sentato ricambieremo e dobbiamo parlare di una questione, capito? Ascolta, a metà uno di quanti, spero che faccia la vita, ti aspetto, vi aspetto, ok, saluta a casa e buon proseguimento in questione, ma io ci sentiremo allora prima di Natale, per cui puoi farci gli auguri, ok, grazie ancora e saluta anche Antonello se sta ascoltando e devo chiudere, buon proseguimento e di serata e a risentirci alle prossime, ok, già va. Tanto ciao Giovanni, Antonello se ci sei, saluto anche io, dai, buon Natale, ci sentiamo prima, vediamo alla prossima, dai, un pochino più con la sala per qualche vita, vediamo. Ciao a tutti, buonanotte. Ok, ciao, chiudo.